Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Allora, due i temi principali: uno è quello che già stiamo affrontando da giorni, che vede impegnato anche il governo e anche le regioni, quindi come e quando riaprire, come, nel senso, è abbastanza scontato che si vada verso una riapertura per fasi, sicuramente dal punto di vista dei soggetti economici, e quindi si sta ragionando ancora se già dalla prossima settimana alcune filiere, come detto ieri, moda, legno arredo, automotive e costruzioni potranno riaprire, e poi si guarda la data del 4 maggio. Non c'è chiarezza invece se vi sarà anche un'apertura scaglionata in base alla fascia di età, che è un modello israeliano che citammo ancora settimane fa. Il comitato tecnico scientifico si è incontrato oggi, non abbiamo visto ancora notizie, e anche qui non si capisce se lunedì verrà confermato un consiglio dei ministri che dovrebbe decidere proprio in tema di riaperture. Nel giorno in cui comunque continuano anche le dichiarazioni in ordine sparso delle regioni italiane. Ora, qui ieri ho sollevato qualche perplessità sulla fretta con cui il governatore della Lombardia Fontana si è messo sulla scia del governatore del Veneto Zaia, perché è inutile girarci attorno, come abbiamo detto più volte, non tutte le regioni sono uguali. Zaia può pensare a una riapertura perché ha contagiati e soprattutto deceduti bassi, molto bassi rispetto alla Lombardia, meno di un decimo. E quindi mi sembra che anche fare la gara ad annunciare la riapertura sia obiettivamente molto molto pericoloso. Poi ho visto la posizione del governatore De Luca della Campania, che dice: beh, se la Lombardia riapre noi metteremo i blocchi alla Campania. E adesso, al di là della battuta che facemmo anche settimane fa, il mondo è, con questo coronavirus, è completamente sovvertito, diciamo. Qui fra un po' arriveranno i cartelli: non si affitta ai Lombardi, ma è una battuta fino a un certo punto, perché la voglio vedere quest'estate con le prenotazioni. Ma detto questo, ecco, la cosa da evitare è che ogni regione vada in ordine sparso, per favore. Capisco benissimo De Luca, tutti abbiamo apprezzato anche il modo molto deciso con cui ha gestito il lockdown, il confinamento in Campania. Però evitiamo che una regione dica apriamo il 4, tanto deve decidere il governo, e adesso vedremo cosa arriverà dal comitato scientifico. Vedo molti messaggi da un lato sul fronte, sì, c'è un allarme delle scuole paritarie che rischiano una su tre di non aprire, avremo un'intervista nei nostri GR, le scuole parificate, e dall'altro molti di voi mi segnalano che in banca ancora hanno problemi. Oggi mi dice un ascoltatore: sono andato in BNL, niente 25.000 euro senza garanzie. Però io spero che la banca si ravveda, nel senso che sappiamo che la banca valuta sulla base della centrale di rischio quello che era il pregresso della persona che chiede. Si è detto fino al, diciamo, al dicembre del 2019, però noi abbiamo chiarito anche ieri che altre garanzie non devono essere chieste. Ho visto Sileoni, che è il segretario generale della FABI, il principale sindacato dei bancari, poco fa dichiarare che alcune banche si sono fatte trovare, era il nostro ospite ieri, fatte trovare impreparate, e se va avanti così farà anche i nomi, no? Perché se no si scaricano le tensioni della clientela su chi lavora allo sportello. Ma eccola qua: alcune impreparate si è costretto a fare nomi. A poche ore dall'avvio dei nuovi finanziamenti abbiamo scoperto che alcune banche sono impreparate, si è costretto a fare nomi di chi è in regola e di chi invece ha perso tempo. È inammissibile che la clientela se la prenda con chi lavora nelle filiali invece di puntare dito contro chi ha la responsabilità di queste gravi inadempienze. Io spero che le banche provvedano rapidamente, anche perché non c'è motivo. Altri di voi continuano a scrivere sulla base delle libertà individuali, e nello specifico i bambini, i ragazzini. l'impossibilità di portarli anche al parco. Adesso anche su questo io non faccio il virologo, però oggettivamente la battuta che abbiamo sentito è che hanno più diritti i cani dei bambini. Ora è chiaramente una battuta, sappiamo che i bambini possono essere soprattutto piccoli asintomatici, però chiaramente, però io dico, anche qui si troverà un sistema per fare in modo che i ragazzini possano andare in un parco, in un'area, senza, mantenendo tutti gli elementi di sicurezza. Tanto abbiamo capito tutti che non è una guerra tra Guelfi e Ghibellini, tra chi vuole riaprire le attività produttive e le libertà individuali e di chi invece tutela la salute. Se la vediamo così è completamente sbagliata. Non c'è da una parte il partito della salute e dall'altra il partito dei soldi. Salute e soldi fanno parte dello stesso partito, non so come spiegare. E quindi il problema, anche perché se tu non riapri in condizioni di sicurezza, poi ti tocca richiudere con un danno economico enorme e psicologico forse anche più grave. Allo stesso modo è inutile far finta di non aver capito che tanto se aspettiamo l'incidenza e il contagio zero, qua voglio dire, stiamo tutti in casa, e c'è un problema anche di gestione psicologica e anche fisica dei ragazzini. Lo dico perché non sfugge a chi ha dei figli, diciamo, minorenni, quello che sia la difficoltà in questo momento. Quindi troviamo un modo appunto in sicurezza, ma smettiamola con questa cosa che finché non c'è zero contagi si sta a casa, che tanto non ci arriveremo mai a sta cosa. Per fortuna sì, mi scrive un ascoltatore, basta travestiti da cani, insegnali a farla con la gamba alta. Sì, ecco, appunto, accetto la battuta. Manca solo travestire tuo figlio da cane e appunto insegnargli a fare la pipì con la gamba alta per portarlo fuori. E tra l'altro si stanno creando disuguaglianze sociali, vi arriveremo, la prossima settimana vorrei affrontare anche il tema con Zamagni, ma non solo, perché è chiaro che non tutti risiedono nelle stesse case e che gli spazi anche interni sono molto diversi a seconda del ceto sociale, ed è chiaro che in questo momento un terzo del paese non riesce a seguire le lezioni online. E quindi si sta creando, mentre la scuola, abbiamo sempre detto, era il principale ed è il principale strumento che livella socialmente, ossia dovrebbe ridurre le differenze che la società ti ha dato a seconda della famiglia in cui sei nato, la scuola è la principale livella di carattere sociale. Ora, se un terzo dei ragazzi non riescono a seguire le lezioni a distanza, e chiaramente è il terzo più svantaggiato della popolazione, che ha meno risorse economiche, meno device, magari un solo device se ce l'ha in casa, ecco, è chiaro che la scuola sta diventando in questo momento non un elemento di uguaglianza sociale, ma di disuguaglianza sociale. Io spero che prima o poi si riesca a affrontare anche il tema di come dare alle famiglie meno abbienti degli strumenti digitali, il device, che sia un tablet, così a basso costo, trovate un modo, affittandolo a costo bassissimo, perché se no in questo momento è inutile continuare a dire facciamo le lezioni a distanza, quando le lezioni a distanza vuol dire lezioni a distanza per chi ha quattro tablet in casa e vuol dire nulla per chi ha un telefonino in tutta la famiglia. Immaginiamo cosa vuol dire seguire una lezione a distanza sulla famiglia. Lo dico perché bisognerà affrontare questo tema prima o poi anche per quello che riguarda le famiglie italiane. Vedo che alcuni mi continuano a scrivere sul fatto che i soldi non siano arrivati in banca. È normale pagare 10 mascherine chirurgiche 17 euro? Sì, è normale quello che sta capitando. Ma dicevo, l'altro grosso tema, oltre al tipo di ripartenza e anche ai diritti, riguarda invece il danno all'economia, proprio perché non sono due cose in contrapposizione. Allora, oggi l'Istat se ne è uscita con una stima che a me personalmente, faccio questo programma da 20 anni, mi ha fatto gelare i polsi. Ogni settimana la stima dell'Istat di chiusura, l'Italia perde 0,5 punto di PIL percentuale. Siccome il PIL più o meno vale 18 miliardi, vuol dire che ogni settimana noi perdiamo 9 miliardi. Vuol dire che tu in un mese hai perso 2 punti percentuali di PIL minimo, e cioè sostanzialmente 36 miliardi. Siccome siamo da un mese e mezzo in lockdown, facile fare il conto al momento. Ora, alcuni mi fanno notare che a molti non sono arrivati 600 euro. Altri mi scrivono che invece gli sono stati accreditati. Vediamo di capire i tempi su questo, mi rendo conto che la burocrazia italiana fosse un problema prima e lo rappresenta e lo è anche adesso. Comunque Banca d'Italia stima, scusatemi, la fonte è Banca d'Italia, non è Istat. La Banca d'Italia stima un crollo del PIL del 5% nel primo trimestre, che ha solo un pezzo di coronavirus, ricordiamo, insomma, da fine febbraio. Sì, c'era già stato il danno al turismo e al turismo d'affari per via dei mancati voli e della chiusura di molte frontiere, ma insomma stima una caduta molto intensa anche nel secondo trimestre. Ogni settimana di blocco di PIL stima la Banca d'Italia 0,5 punto percentuale, e poi c'è un calo nei consumi delle famiglie. Parleremo dei consumi delle famiglie, perché qui se non riparte un po' di economia, ragazzi, attenzione bene. Io non ce l'ho, qualcuno mi scrive, lei ce l'ha con i virologi? Assolutamente no, anzi facciamo ascoltare la Protezione Civile ogni giorno. Però un paese non può fidarsi solo non può solo basarsi sui virologi. I virologi ti stanno dicendo come gestire l'emergenza, era un'emergenza sanitaria, le cavolate fatte in primo luogo nella regione Lombardia hanno ospedalizzato il virus, abbiamo creato il più grande focolaio, il più grande tasso di mortalità in Lombardia al mondo come singola area geografica. Però attenzione, perché se non ripartono le attività, tu avrai ancora di più il problema del potere d'acquisto delle famiglie, e di questo parleremo, perché da questo punto di vista c'è un allarme lanciato anche dai consulenti del lavoro, che è un allarme molto molto significativo su quello che potrebbe capitare, e adesso vi arriveremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sì, ogni tanto qualcuno mi dice la vedo agitarsi, no, guardate che girare le pagine con i guanti, avere i capelli non tagliati da un mese e mezzo che coprono le cuffie, insomma tutta la situazione in cui lavoriamo ogni tanto ti innervosisce. In studio sono tutte le assistenti e la regista con la mascherina, quindi neanche capisco il facciale, vado così a intuizione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Nel frattempo ho trovato anche la notizia, sì, perché i consulenti del lavoro stimano che tra i consumi crollati e le chiusure quasi rischi 3 milioni di nuovi poveri. E ripeto, non è da mettere in contrapposizione la sicurezza con l'economia, anche perché, ripeto, se poi si blocca di nuovo l'attività produttiva il danno è peggiore. Sui virologi ripeto, ascoltiamo, si ascolta sempre la scienza, però non si può chiedere al virologo di fare qualcosa che non è il suo compito. Il virologo ti può dire come sta andando la curva dei contagi, che bisogna scendere sotto l'RO a 1, poi però il politico deve prendere anche la decisione sulla base degli altri indicatori che ti arrivano e guardare quando e con cautela si può riniziare a riaprire alcune attività. Comunque andiamo avanti, adesso non possiamo riaprire se poi c'è il rischio di venire di nuovo riempirsi le terapie intensive. Sì, ho capito, però siccome nessun virologo ti dice mai che questo rischio arriverà a zero, cosa facciamo? Stiamo chiusi, ma non è tanto per stare chiusi in casa, blocchiamo il paese per altri 3 mesi, 4 mesi? Dovremmo iniziare a ragionare, avendo terapie intensive che si sono liberate, per fortuna sono più di 1000 i posti che si sono liberati in 12 giorni, in 13 giorni. Una struttura sanitaria che non commetterà certi errori, immagino, sarebbe veramente criminale, commessi per incapacità, insipienza, ignoranza, quello che volete, nelle prime settimane. E anche una struttura sanitaria che si è trasformata nel frattempo, dovremmo iniziare a accettare a livello, diciamo, un numero compatibile di nuovi contagi. È ovvio che poi casomai si riblocca tutto, ma iniziare a far ripartire alcune attività lavorative. Sì, poi c'è il tema delle regioni, Basilicata e Molise sono a contagio zero, la Puglia per fortuna è anche bassa, la Sicilia è anche bassa, la Campania è anche bassa, la Sardegna è bassa, lo so, e lì diventa ancora più difficile accettare, diciamo, una chiusura su tutto il territorio nazionale. Comunque, adesso vi arriviamo, lo dalle notizie di carattere internazionale. Intanto partiamo dalla borsa, che oggi è in recupero, più 1,20 Milano, più 3 Parigi, più 2,70. La borsa sta cercando, festeggiando è una parola forte, ma è positiva perché la Germania ha iniziato a dire adesso noi andiamo a riaprire, e vari paesi sono su questa fase, non solo i paesi più piccoli come la Danimarca, ma dico, l'industria continua a lavorare in Germania, stanno riaprendo i piccoli negozi, poi riapriranno le scuole anche in Germania. Comunque, tornando alla borsa, più 1,30% Milano, più 3 Parigi, più 2,90 Francoforte, dicevo, più 1,46 il Dow Jones, più 2,60 Londra, Atlantia più 7,5, Moncler più 5,5, Xor più 4,5, come Amplifon il 3,80 lo guadagna Case New Holland, CNH, e il 3,80 anche rialzo di Ferrari e di Campari, Nexi più 3,5 come Boots Unice, Munich Credit più 3,20 come Fiat Chrysler ed ST Microelectronics, perde di Assorin il 5%, Italgas l'1,30, Telecom l'1,30%. Dunque, la Cina nel primo trimestre fa segnare un crollo per la prima volta dal 1992, da quando misura le statistiche su base trimestrale del suo PIL. Non era mai successo che il PIL cinese avesse segno meno 6,8%, la variazione congiunturale addirittura del meno 10%. È fiducioso sul PIL nel secondo trimestre, ma ha visto crollare le vendite al dettaglio anche a marzo, meno 16%. E poi Wuhan ha rivisto a sorpresa i numeri dei contagi. Questo per dire quanto affidabili siano i numeri dei contagi in Cina, cioè zero. Guarda, io noto che in Francia, non solo negli Stati Uniti, per motivi anche di scontro geopolitico, ma ieri Macron ha detto una cosa molto importante sulla Cina, ha detto ancora non sappiamo che cosa sia successo lì. La Francia sta facendo anche sui suoi quotidiani inchieste per cercare di capire come la Cina abbia gestito, quando sapesse, come sia nato. Io noto che in Italia invece non si parla mai della Cina. Forse c'è da parte di qualche partito un eccesso di attenzione nei confronti della Cina. Allora, la Cina oggi ha stabilito che i morti a Wuhan sono aumentati da 1.325 i morti e 1.290 i contagi. Questo, secondo i media locali, è revisione conforme a leggi e regolamenti, al principio di essere responsabili verso la storia le persone defunti. Ma dai, per favore. Così i morti a Wuhan vanno a 4.632, non più a 3.000 quanti erano? 3.800 in precedenza. E poi, dopo le critiche di Macron, il portavoce del ministro degli esteri Zhao Lijian ha detto: attenzione, non facciamo polemiche, bisogna stare uniti, il Covid-19 non è ancora sotto controllo. E, insomma, anche il ministro degli esteri britannico Dominic Raab ha detto la stessa cosa. E il portavoce del ministro degli esteri cinese ha detto: non permetteremo mai insabbiamenti. Chiameremo Geraci, è vero che era sottosegretario dell'ex governo che si occupava molto di Cina. Allora, negli Stati Uniti c'è un nuovo record ai medi morti, 4.591 morti in 24 ore, che porta il livello dei morti negli Stati Uniti a 33.000. Però Trump ha chiarito, saranno i governatori a decidere quando riaprire i loro stati. Dicevo, invece, il ministro della salute tedesco ha detto che l'epidemia è sotto controllo in Germania, il tasso di infezione è sceso allo 0,7%, in Germania stanno facendo decine di migliaia di tamponi, anche quelli con i taxi, cioè quelli mentre uno sta guidando. La Germania produrrà 50 milioni di mascherine a settimana, e qui poi dovremmo anche capire perché l'Italia e la Francia e la Spagna si siano fatte cogliere così impreparate, se l'emergenza viene dichiarata a fine gennaio in produzione di mascherine, respiratori e quant'altro. La Germania aveva un numero di posti letto incredibile, 5 volte superiore a quello italiano in terapia intensiva prima della crisi. E poi ha fatto tantissimi tamponi. Già da questo punto di vista, sapete che i tedeschi, io li critico quando non sono solidari in Europa, ma hanno dimostrato un'efficienza che l'Italia, nella Spagna, nella Francia hanno mostrato. Il dibattito sul MES, io non ho capito che cosa sia successo oggi in Parlamento Europeo, perché Lega e Forza Italia hanno votato contro l'emendamento dei Verdi che prevedeva la condivisione del debito tra i paesi dell'Unione Europea, cioè i Corona Bond. Allora non ho capito perché la Lega e Forza Italia abbiano votato contro i Corona Bond, tanto non passeranno se va avanti così. Non si vogliono fare i Corona Bond, si va verso nella riunione del 23 a Bruxelles verso un recovery fund e poi vedremo che tipo di condizionalità, se vi saranno condizionalità sul MES anche per la parte sanitaria. Non ho capito il voto, però poi si sono divisi invece PD e 5 Stelle in Parlamento sul voto sul MES, perché il PD ha votato a favore del paragrafo 23 che invita i paesi dell'area euro a attivare il MES, i 5 Stelle si è espresso contro, contrari anche Lega e Fratelli di Italia, a favore invece Italia Viva e Forza Italia. Ancora le auto, l'effetto pandemia, meno 51% la vendita di automobili in Europa a marzo, in Italia anche, scusatemi, in Europa Fiat ha fatto anche peggio, meno 74%. I dati di febbraio invece dell'Istat segnalavano un commercio con l'estero che stava andando bene a febbraio, più 7% grazie alla farmaceutica, e il surplus era stato di 2 miliardi 800 milioni di euro rispetto al febbraio del 2019, dati che adesso sembrano di un secolo fa. Dunque, per quello che riguarda le banche, mi stanno scrivendo molti di voi, anche la Presidente della Commissione Banche, Carla Ruocco, dei 5 Stelle, ha detto: stiamo riscontrando che ci sono molti atteggiamenti poco corretti da parte delle banche, come dice anche Sileoni. Attenzione, ci può essere un problema dentro il mondo bancario, me lo stanno scrivendo alcuni ascoltatori, siccome i turni anche lì sono ridotti, cioè si è ridotto il personale chiaramente che va al lavoro, ci può essere anche un problema di mancanza di personale per sbrigare tutte le pratiche. Comunque, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Iniziamo col tema delle riaperture. È in corso da questa mattina, infatti, da quanto abbiamo capito, la riunione della task force di esperti guidata da Vittorio Colao per la cosiddetta fase 2. Allora, e a proposito della fase 2, leggo assieme a voi un flash appena abbattuto dalle agenzie: si lavora una divisione delle zone del paese, vedi, a seconda della diffusione del contagio. Riaperture differenziate per macro area a seconda della diffusione del contagio, con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la tenuta del contenimento e in caso contrario procedere a nuove chiusure. È l'ipotesi su cui stanno lavorando gli esperti e quindi il comitato di Colao, che dovranno fornire al governo gli indirizzi generali per la fine del lockdown. Stando a questa ipotesi, l'Italia verrebbe sostanzialmente suddivisa in tre macro aree, nord, centro e sud, in base alla diffusione del contagio. Questo vuol dire che per chi vive in Lombardia, in Emilia e in Piemonte siamo gli ultimi qua. Ma è giusto, nel senso, è di vedere i contagi. Allora, qui non capisco, però, ma non lo spiega l'agenzia, se questo riguarderà anche le attività produttive o in realtà la parte, diciamo, dei diritti personali, cioè cosa potrò fare io, come potrò uscire e non le attività produttive. Lo dico perché sulle attività produttive in realtà è un po' più complicata. Le filiere del valore, come si chiamano, cioè la filiera che poi, non so, della ceramica, del biomedicale, così, in realtà non sono regionali. Uno può prendere la componentistica in una regione, un elemento in un'altra. Pensate solo al packaging alimentare o quant'altro, perché immagino sia per, diciamo, la parte, diciamo, del lockdown sui diritti individuali. Comunque, Giovanni Tamburi, presidente amministratore delegato della Tamburi Investment Partners, società quotata Piazza Affari, Lei partecipa in tantissimi gruppi italiani, Alpitour, Amplifon, Digital Magic, Ferrari, Furla, Hugo Boss, Moncler, Italy, Azimut, Zignago Vetro. Buonasera. Buonasera. Ora Tamburi, l'ultima volta che ci siamo sentiti, si figuri, era il 23 di dicembre con l'astrologa, 24 di dicembre, che previde un gennaio con una cosa incredibile, ma non voglio arrivare su questo. Voglio capire invece qual è la sua idea sulle riaperture. Adesso c'è questa agenzia che non riesco a leggere fino in fondo, nel senso che non capisco se riguardi anche le attività di impresa, che prevede comunque un lockdown che va a esaurirsi a seconda delle aree geografiche. La convince in primo luogo? No, nel senso che le riaperture devono avvenire tutte molto rapidamente. Allora, innanzitutto, ad oggi, da una stima di ieri del sindacato, per cui non mia, siamo al 65% già di aperture come aziende italiane, per cui abbiamo già aperto abbastanza, grazie al cielo. Lei parla di aziende, chiaramente non stiamo parlando di esercizi commerciali, bar, ristoranti, negozi, lei sta parlando di imprese, giusto? Sia dei servizi, sia di manifatturiere che dei servizi, sì, prego. Imprese, per cui 65%, che è già un buon numero, anche perché si è visto che ormai quella che era una battuta di un mese e mezzo fa, e cioè che è più facile prendersi il contagio al supermercato in coda che non in azienda, è assodato da tutti, ammesso anche dal sindacato, eccetera. Per cui secondo me bisogna far aprire tutta l'Italia entro il 4 maggio, con tutte però le cautele giuste. Tra l'altro io continuo a fare call con le varie aziende e ormai ci sono telecamere che misurano la febbre, danno una serie di dati sulle persone, eccetera. Cioè ci sono tutta una serie di cose sofisticatissime che consentono di aprire con grandissima tranquillità. Anche perché, questo bisogna che ce lo diciamo con grande serenità, bisogna conviverci con questo contagio, non è che muore domani mattina. Se anche dessimo troppo spazio a virologi, epidemiologi, eccetera, eccetera, ci dovremmo rendere conto che questa è una cosa che continuerà nel tempo. Dobbiamo nelle fabbriche essere molto attenti alla tutela del lavoratore e riaprirle con grande tranquillità, anche perché, come ormai hanno detto tutti, è più facile a questo punto rischiare di morire di fame con un'economia che si sta asciugando rispetto a tutelare pochissime persone in pochissime aziende in maniera totalmente illogica. Allora qui questo si salda col tema anche di quali fasce di età. Qualcuno mi scrive: sarebbe incostituzionale non far uscire, era circolata una bozza in cui chi ha meno di 18 anni e chi ne ha più di 70 avrebbe forme di lockdown. Io non so se sia incostituzionale o no, però so che in molti paesi lo hanno fatto. Io ero anche personalmente per dare degli scaglioni, cioè invece che bloccare i bambini dentro casa, soprattutto quando le case sono case piccole e con pochi spazi, forse si poteva pensare a far uscire i ragazzini in certi orari e gli anziani in altri, visto che il problema è evitare il contatto e soprattutto il contagio tra bambini e anziani, perché i bambini sono spesso portatori asintomatici nella stragrande maggioranza dei casi, gli anziani ahimè no. Faccio notare che in molti condomini di questo paese, senza che nessuno glielo dicesse, le famiglie si sono organizzate dicendo: dalle 2 alle 3 scendo io con mio figlio, dalle 3 alle 4 scendi tu. Cioè, ragazzi, non possiamo immaginare che tutti si restino chiusi in casa se abiti in uno spazio ristretto senza devices. Comunque non voglio tornare su questo, perché, ripeto, ascoltiamo come se fosse la Bibbia i virologi quando parlano dell'andamento del virus. Poi però qualcuno deve anche ragionare su come si riesca a far ripartire il paese. Tamburi, alcuni dicono sì, ma in realtà in molte aziende non ci sarà possibilità di controllare le misure prese, intanto perché gli ispettori dell'INAIL sono pochi, perché le forze di polizia devono fare anche altro e perché magari le rappresentanze sindacali non sono presenti in tutte le realtà. Ma qui bisogna cominciare a ragionare, visto che c'è questa emergenza, sull'Italia responsabile. Cioè, se noi pensiamo che devono aprire le aziende soltanto in funzione del fatto che le forze di controllo, i NAS eccetera, vadano a visitare le aziende, siamo dei pazzi. Bisogna dire l'imprenditore che come prima priorità alla forza lavoro dei suoi lavoratori dipendenti, deve lui tutelarli, è un suo problema, semmai se c'è un problema dopo dovrà essere sanzionato, ma non possiamo certo inventarci delle cose tali per cui dobbiamo rendere omogenee le persone che possono fare sanzioni o controlli rispetto a quelli che sono i lavoratori, se no vorrebbe dire che noi dobbiamo avere polizia stradale per tutti gli incidenti o per tutte le infrazioni che tutti quanti facciamo normalmente. Siamo alla follia totale. Dobbiamo avere un senso e dare un senso di responsabilità alla classe imprenditoriale di questo paese, che ha fatto questo paese grande, importante, una delle più grandi potenze del mondo, e dire: benissimo, se poi tu fai male e lo proviamo, avrai le tue sanzioni, punto e basta. Sì, io ritengo anche che la stragrande maggioranza degli imprenditori tutto vogliono rischiare tranne che un contagio dentro l'azienda, perché poi lì sì che devi mettere in quarantena, e abbiamo visto che la quarantena non è più di 2 settimane, in Lombardia di 28 giorni, e lì chiudi veramente, mentre magari i tuoi concorrenti o altri stanno lavorando. Quindi voglio dire, poi un tasso di idiozia è presente in qualunque categoria sociale. Le mamme dei cretini sono spesso incinte, si diceva una volta, quindi non sto dicendo che saranno il 100% tutti lì. Sto dicendo però che dobbiamo anche, ed è l'approccio di Zaia, dare un atto di fiducia, visto che siamo stati così bravi, gli italiani sono stati così bravi a rispettare il lockdown, forse anche un atto di fiducia nei confronti degli imprenditori, dei sindacati che lavorano con questi imprenditori e dei loro dipendenti. Tamburi, resti con noi, perché vorrei capire se invece lei, che partecipa come azionista in realtà molto diverse tra di loro, si sia fatto un'idea di chi dovrebbe riaprire prima, perché c'è un'ulteriore ipotesi al di là del 4 maggio, che alcune filiere del Made in Italy, moda, quindi abbigliamento, legno arredo, automotive e forse anche l'edilizia, possono riaprire prima. Anche qui, conoscere per deliberare. Non tutte le imprese sono uguali, ho capito la battuta sui supermercati, ma ci sono imprese che per loro struttura erano già abituate a lavorare con altissimi standard di sicurezza, mascherine, tuta e quant'altro, e molto più distanziate. Vista la sua esperienza in mondi così diversi, vorrei sapere lei se si è fatto un'idea, una graduatoria, diciamo così, di quali tipologie di impresa potrebbero riaprire prima di altre e sulla base di quali motivi. La risposta dopo il meteo. Focus Economia. Allora, dunque, è arrivata intanto un'altra agenzia sulla fase 2, quella che ho letto, diciamo, sulle macro aree. Sostanzialmente, laddove la diffusione del virus è maggiore, dovrebbero rimanere misure più stringenti, soprattutto per quanto riguarda la mobilità tra una zona e l'altra, sia all'interno delle macro aree, sia tra una macro area e l'altra. In quelle dove invece il virus ha colpito in maniera meno importante, si potrebbero prevedere riaperture più ampie. All'interno delle stesse macro aree, inoltre, dovrebbero essere individuate ulteriori suddivisioni tra zone a maggiore e minore diffusione. Al nord, per esempio, regioni come Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia hanno una situazione diversa da Piemonte, Lombardia e Veneto. Tanto a noi non ci cambia niente, Tamburi, perché noi siamo gli ultimi a uscire, a muoverci da Milano, a muoverci da... Ed è terminata ora la riunione della task force. Comunque, le dico, Tamburi, intanto deve rispondere anche sulle categorie di impresa. Mi stanno dicendo molti ascoltatori: guardate che un conto è un'impresa con 300 dipendenti e un conto è un'impresa con 15 dipendenti, anche come costi, procedure. Altri mi dicono: ma vi rendete conto che forse al massimo, secondo le proiezioni, solo il 10% degli italiani è venuto a contatto con il virus, quindi c'è il rischio di infettarne il restante 90%? E vorrei che mi rispondesse anche a questo, prego. Allora, riguardo ai settori, secondo me non c'è dubbio che ci vuole una attenzione a chi deve fare delle cose assolutamente. Pensiamo al tessile, abbigliamento, moda di cui lei parlava prima. Questo è un settore che in questi giorni deve finire di comprare delle cose per poi metterle nei negozi per l'autunno-inverno. Se non vengono fatte queste cose qui, si blocca l'economia di queste aziende per molti altri mesi. Per cui certamente devono essere fatte delle suddivisioni settoriali intelligenti sulla base di queste cose qua. Dal punto di vista pratico, poi, la maggior parte delle aziende sono già organizzate. Poi rispondo alla domanda sulle più piccole, eccetera, eccetera, ma le mascherine ce l'hanno tutti. Stamattina in un'azienda mi parlavano di gadget particolari che riconoscono le persone, telecamere particolari, eccetera, eccetera. Tutti hanno adottato i turni per cui si arriva in un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora scaglionati. Tutti hanno separato le mense, tutti hanno separato gli spogliatoi. Cioè, c'è già in un'Italia intelligente ed evoluta la maturità sufficiente per aprire queste aziende. Per cui, secondo me, va fatto un ragionamento generale di settori, va fatto un ragionamento specifico di territori e di filiere e poi vanno fatti aprire nei prossimi giorni tutti quanti. Alla domanda più delicata, che è la seconda, sul discorso del 90% e del 10%, sono balle totali. Bisogna che la gente si metta in testa che i contagi sono stati relativamente pochi. Siamo un paese di 60 milioni di persone, stiamo parlando di poche decine di migliaia, stiamo parlando voglio finire di dire una cosa. Nelle aziende lavorano persone fino ai 65, 66, 67 anni. L'80% delle persone che sono decedute, per cui che hanno avuto conseguenze gravi da questo contagio, non sono in età lavorativa, per cui non ci vanno proprio. Bisogna smetterla con questa demagogia idiota di gente che su questo altare dei contagi sta bloccando l'economia italiana. L'hanno detto tutti i paesi del mondo. Noi con le aziende italiane oggi stiamo combattendo contro concorrenti europei e americani che stanno continuando a produrre tranquillamente, e per cui dobbiamo pensare a questo aspetto qui, con tutte le tutele del caso, anche nelle piccole aziende. No, allora la cifra del 10% riguarda le proiezioni fatte anche da Oxford e da altri su quello che sarebbe il reale numero dei contagiati, che tra l'altro porterebbe a ridursi moltissimo la mortalità di questo virus. Lo spiego. Esatto. Perché se tu hai un certo numero di contagiati, e purtroppo abbiamo già 22.000 morti, la mortalità in questo momento rispetto ai casi confermati è del 13%. È ovvio che se però i casi fossero molti di più e non 170.000, ma quelli reali, gli asintomatici, almeno 10 volte tanto, anche la mortalità si abbasserebbe, che non vuol dire prendere sotto gamba nulla, per favore, lo dico a chi mi sta scrivendo. Non ho invitato un virologo proprio perché i virologi li ascolto tutti i giorni, però devo anche pormi e preparare il paese alla riapertura. Oltre all'idea delle regioni, quello che sta emergendo dalla task force di Colao è anche quindi semafori rosso, verde, rosso, giallo e verde a seconda di dove abiti, in base alla diffusione del virus. Semafori verde, giallo e rosso anche a seconda dei settori di produzione. La metà dei settori nella lista è ritenuto a basso rischio integrato: agricoltura, pesca, estrazione di minerali, imprese dell'edilizia, comparto dell'industria manifatturiera in generale, tutto, alimentare, tessile, chimica, metallurgica, legno, carta, pelle, fabbricazione di computer, automobili, anche il settore editoriale, produzione cinematografica, e le attività immobiliari, le agenzie di viaggio e le biblioteche. Molti di questi sono chiusi anche se considerati a basso rischio. Poi ci sono quelli a rischio medio-basso, e quindi la stragrande maggioranza dei settori del commercio, ristorazione, attività sportive, bar, ristoranti, palestre, e dipende anche dai livelli di aggregazione sociale. I negozi all'ingrosso hanno meno problemi di quelli dei centri commerciali. A livello medio-basso anche per istruzione e scuola e per i trasporti. Livello alto invece, allerta rossa, per il trasporto aereo, l'assistenza sociale e quella sanitaria non residenziale. Un'ultima domanda però, Tamburi, sempre sulle fabbriche da riaprire, gli stabilimenti. Si pone il tema del trasporto, ne parlavo ieri con due imprenditori come Galassi da un lato e il presidente del sistema moda italiano. In molte regioni si va, la dico male ma fammi capire, si va al lavoro in macchina, vuoi perché non c'è un trasporto locale, vuoi perché la diffusione dell'impresa è talmente territoriale che... In altre regioni invece si utilizzano i mezzi pubblici, principalmente dove c'è una grande città, penso a Milano, penso a Torino e non solo. E qui c'è il tema anche di come fai arrivare le persone al lavoro. Allora, giustissimo. Allora, innanzitutto dividiamo in due. Per fortuna tutti quanti stiamo sperimentando che questo famoso smart working funziona molto bene. Per cui, siccome la maggior parte delle persone che usa i mezzi pubblici nelle grandi città vanno negli uffici, la prima cosa da continuare a fare è lo smart working per gli uffici. La seconda cosa da fare, e questa la sta facendo in tutto il mondo perché non dobbiamo inventare niente, è che per salire sui mezzi pubblici ci vogliono mascherina e talvolta, se possibile, i guanti che si comprano in qualunque supermercato. Questo risolve moltissimi problemi. Sulle fabbriche, che sono invece la cosa che deve comunque funzionare presto e funzionare totalmente bene, perché non ci possono essere filiere interrotte, qualcuno lavora e qualcuno no, dobbiamo valutare come ci si va. La maggior parte dei lavoratori italiani che vanno nelle fabbriche vanno in bicicletta, in motocicletta o in automobili da solo, anzi, per anni li abbiamo tutti criticati perché andavano sempre troppo da soli. Per quella frangia che effettivamente va con dei mezzi con altre persone, bisogna anche lì mascherine, guanti, protezione, e questo fatto anche degli scaglionamenti, perché se uno ha il turno di lavoro che comincia non ad un certo minuto ma nell'ambito di una mezz'ora, può scaglionare i mezzi di trasporto in maniera intelligente. Per cui secondo me, con una programmazione normale, copiando da quello che stanno facendo in altri paesi, ma semplicemente adattando quello che, tra l'altro, lei ha nominato Zaia. Zaia è stato il più intelligente, il più bravo e il più visionario negli ultimi mesi, non c'è dubbio, ha già organizzato queste cose qui. Per cui basta copiare il Veneto senza andare a fare gli esterofili e siamo già a posto. Forse possono sembrare ottimista o facilone, però vi posso assicurare, primo, che il mio gruppo ha 100.000 dipendenti, per cui parla qualcuno che il lavoratore crede di conoscerlo, e l'aggregato di TIP sono 100.000 di persone, e non è poco. Per cui ho studiato bene il tema, lo conosco, e credo che con un po' di intelligenza e di applicazione, con Vittorio Colao ho parlato varie volte negli ultimi giorni, si possono risolvere benissimo tutti questi problemi. Da oggi c'è anche l'app, tra l'altro l'app è stata scelta in una delle nostre partecipate, per cui sono particolarmente lieto questo. Fine. Senta, visto che hai parlato con Colao, ci conferma Tamburi che l'idea di dividere il paese sia per tipologie di imprese con i semafori che per aree geografiche? Non lo sa neanche lui, perché deve sottoporre i suoi pareri al governo, ai virologi, eccetera, eccetera, e non lo può decidere lui. Lui darà i suoi pareri. Allora, grazie anche a Giovanni Tamburi, presidente amministrativo di TIP Tamburi Investment Partners. Allora, sull'app che citava Tamburi, in effetti è oggi uscita l'agenzia, perché? Perché il commissario Domenico Arcuri ha firmato l'ordinanza, ha scelto la società Bending Spoons S.P.A., una società che è un piccolo gioiellino, ha raddoppiato il fatturato, lo dico, i ricavi nell'ultimo anno, e Luca Ferrari, l'amministratore delegato, lo stiamo cercando, lo sta cercando il nostro Enrico Pagliarini, che sono molto orgoglioso, è una concessione gratuita, Si procederà alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito. Poi devo dire una cosa a un ascoltatore che inizia a dire: vabbè, allora se Tamburi si ammala non dategli la camera. Guardi, però adesso non mi faccia girare anche il venerdì. Nessuno sta contrapponendo la sicurezza con il lavoro, ma è sbagliato porre come antitetici, come, capito, Guelfi, Ghibellini, sicurezza e lavoro. Si cerca di studiare, non in Italia, in tutto il mondo, in Israele non ha mai chiuso, un modo per garantire il lavoro nella massima sicurezza, sapendo che comunque non arriveremo a zero, visto che a lei piacciono tanto i virologi, non c'è un virologo che ci dica che arriveremo a zero casi nei prossimi mesi, non ce n'è uno. Allora aspettiamo fino ad agosto a riaprire? Io non sono nervoso, ma vorrei che ogni tanto qualcuno collegasse il cervello con il resto del corpo. Di dire a Tamburi: allora ti meriti di andare in... Il problema emergenziale all'inizio era proprio la saturazione delle camere, dei posti di terapia intensiva e dei ricoveri, anche per errori e distrazioni e incapacità compiute dai nostri amministratori. Il governo ha la colpa di non aver provveduto a mascherine dopo aver messo il 31 gennaio lo stato di emergenza, e le regioni, nello specifico la regione Lombardia e anche il Piemonte, non scherza, hanno voluto gestire, diciamo, in maniera così, ospedalizzando, come continuo a dire, la pandemia. E non me ne frega nulla, perché ho elogiato Zaia decine di volte in questi giorni, e anche Zaia leghista, quindi non è un attacco, come scrive qualcuno, a Salvini. Anzi, ho visto che Salvini continua a difendere la regione Lombardia, ma Salvini che difendesse la regione Veneto, visto che Zaia è uomo suo, o no? E portasse l'esempio della regione Veneto. Oh, allora. Adesso vediamo di capire quanto si può. Ripeto, se i virologi, che hanno cambiato loro idea anche, dicono che con le mascherine l'elemento di sicurezza con 2 metri è garantito, possiamo immaginare che in fabbrica, in azienda si vada a distanza di 2 metri con le mascherine? Allora, Zaia, vabbè, oggi te avremmo fatto prima, ma il governo decidere, e De Luca è pronto a chiudere i confini con la Campania. Vedremo fra un mese chi aveva ragione, ma guardi che non è una gara, perché lei si augura che la riapertura porti l'aumento dei contagi? Adesso poi le racconto dopo il GR24 qual è la stima dei consulenti del lavoro sugli italiani che vanno in povertà, 3 milioni di nuovi poveri, e poi lei mi deve dire cosa ne pensa. Nessuno è ossessionato da riaprire subito, qui stiamo parlando dal 4 maggio in poi, e se sono ossessionato io, come mi scrive qualche ascoltatore, la mia è l'ossessione che ha anche Macron in Francia, che ha Sanchez in Spagna, che ha la Merkel in Germania, che ha Trump, che hanno tutti i capi di Stato di governo in questo momento. Riaprire ma in sicurezza. Non è che non si possa parlare del tema delle riaperture, se no uno diventa una specie di untore. GR24. L'Italia come non l'abbiamo mai vista cambia noi e le nostre priorità. Code ai supermercati, film in streaming, tante torte, lavori in casa. Per chi lavora, tenere duro. L'economia delle piccole cose cambia, ma non vi lascia soli. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato mattina alle 7:15 su Radio 24. Focus Economia. Sei minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e tra poco ascolteremo come sempre le parole del commissario Borrelli. Allora, chi mi dice, ma ancora continua sul siete dei criminali, volete, guardate, abbia pazienza, avrete sulla coscienza il peso dei nuovi infetti, ma guardate che il rischio zero non esiste. Cioè, chi vi parla e anche chi sta dall'altra parte del vetro, veniamo a lavorare, siamo ridottissimi anche qua come organico, siamo a un quinto dell'organico normale, con le mascherine, con i guanti, con il coprimicrofono, con la temperatura presa ogni giorno dal 25 febbraio quando arrivi qui al Sole 24 Ore, con i detergenti per le mani. È chiaro che riduce al minimo, con una distanza di 3-4 metri quando ti incontri e ti parli, con la mascherina, è chiaro che cerchi di ridurre al minimo il rischio zero non esiste, ma non esiste neanche quando vai in autostrada il rischio zero. Ma non è un buon motivo per non andare in autostrada. Altra cosa è dire, allora si guida a 130, si sta distanti, si mantengono le distanze di sicurezza, è lo stesso discorso. Cos'è questa storia del rischio zero? E poi se uno ha un problema in autostrada non è che può dire, ecco, è colpa tua che hai riaperto le autostrade. Allora, a proposito dei rischi, i consulenti del lavoro hanno stimato una cifra che, quando l'ho vista anche qui, ho fatto un salto sulla sedia, di 3 milioni nuovi poveri come effetto delle chiusure. La produzione industriale sarebbe scesa del 15% in marzo e di circa il 6% nella media del primo trimestre, il PIL più o meno 5 punti percentuali. Questi sono i dati della Banca d'Italia di oggi. Però vorrei commentare prima la stima fatta dai consulenti del lavoro, e ringrazio la Presidente del Consiglio nazionale Marina Calderone, perché ci sta raggiungendo in collegamento. Qualcuno mi scrive, per far ripartire l'economia servono iniezioni dirette di liquidità. Sì, perfetto, ma prima riparte l'economia. Guardate che se qui non iniziamo a riprodurre un po' di PIL, non entrano soldi nelle casse dello Stato, e poi mi spiegate come paghiamo la sanità e tutte le strutture pubbliche da settembre in poi? Abbiamo già imbarcato deficit. Comunque, Marina Calderone, buonasera. Buonasera a voi. Senta, voi avete stimato in 3 milioni di nuovi poveri. Innanzitutto vorrei capire come siete arrivati a questa stima e quali sono le fasce e categorie, diciamo, che risultano maggiormente colpite e coinvolte. Ma noi siamo partiti ovviamente da quella che è la platea degli occupati, sono circa 22 milioni. Abbiamo stimato 9 milioni e mezzo di soggetti che non lavorano a causa del blocco delle attività economiche, e su questo abbiamo individuato quei 3.700.000 soggetti che vivono in famiglie di monoreddito. E allora lì abbiamo ovviamente affrontato il tema e focalizzato la nostra attenzione, perché si tratta ovviamente di soggetti che hanno percepito l'ultimo stipendio alla fine di febbraio e primi di marzo e a oggi non hanno ancora ricevuto il sussidio di cassa integrazione. Stiamo parlando di soggetti che per il 50% circa guadagnano una cifra mensile di 1.250 euro. Quindi situazioni che ovviamente dopo due mesi ci portano a dire che abbiamo un rischio scivolamento verso condizioni ovviamente di povertà che possono indubbiamente, se non affrontate immediatamente, poi rendere difficoltosa la vita e soprattutto il sostentamento giornaliero delle persone. Senta, non voglio ridurre il tema perché ne abbiamo parlato molto, la lentezza con cui si stanno erogando i 600 euro, a me risulta che alcuni li abbiano già ricevuti sul conto corrente, altri mi dicono che ancora non sono arrivati. Euro per gli autonomi. Per gli autonomi, e da un lato che sappiamo che hanno un tetto, 35.000 euro di fatturato lordo all'anno, o fino a 50.000 se tu puoi dimostrare che hai perso più del 30% di attività e di fatturato. E poi invece il tema della cassa integrazione, perché quello è un ottimo strumento, il governo giustamente l'ha estesa in deroga anche a chi è un dipendente, però anche qui ci segnalano, il ministro Gualtieri ha detto che da lunedì dovrebbero essere accreditate le somme per la cassa integrazione. Vorrei capire quello che risulta a voi come consulente per lavoro. Allora, a noi risulta che in questo momento l'INPS sta procedendo con le autorizzazioni di cassa integrazione. Non credo che sarà possibile, ecco, lunedì avere i primi pagamenti, ma questo noi stimiamo invece potrà avvenire alla fine del mese di aprile. Ma questo è dato dal fatto che le procedure sono lunghe, e quindi sono lunghe, sono tante, sono complicate. Noi abbiamo 25 modi diversi di fare una domanda di cassa integrazione guadagni, 21 quelle delle casse in deroga regionali, e più altri 4 strumenti che sono quelli nazionali. Ecco, in questo momento quello che sta incidendo è indubbiamente l'aspetto burocratico, non certamente l'assenza di volontà da parte del governo o dell'INPS di effettuare i pagamenti, sì, però neanche l'assenza di volontà dei consulenti del lavoro di fare le pratiche. Ecco, no, ma visto che poi voi fate le pratiche, lei dice non c'è una volontà, un'assenza di volontà del governo, però è anche vero che forse si poteva pensare, non so in che modo, a una corsia preferenziale, cioè questo è un periodo straordinario e tutto l'iter burocratico della cassa integrazione normale è una cosa, qui bisognava pensare a un qualcosa di eccezionale. Secondo lei non si riusciva ad avere un iter deburocratizzato, per dire così? Ma noi l'abbiamo proposto e lo sosteniamo, perché sarebbe bastato creare un unico ammortizzatore sociale, non creare la cassa in deroga regionale, ma invece un unico ammortizzatore con un'unica causale, perché unica è quindi quella Covid-19, mettere lì tutti i fondi e quindi dare un'unica procedura d'accesso per le imprese e per i professionisti per poter presentare le domande di cassa integrazione. Abbiamo anche detto che dal nostro punto di vista il passaggio dell'informativa sindacale dell'accordo, quando la situazione che andiamo a sancire è chiara ed evidente a tutti quanti, avrebbe serve? Potuto anche essere evitato. Cioè lei mi sta dicendo che appunto resta il passaggio dell'accordo dell'assenso sindacale anche in una situazione in cui non riesco a capire che assenso o che dissenso potrebbe dare un sindacato, tutto qua. Io penso che non sia possibile assolutamente dare un dissenso quando la situazione è evidente. È un passaggio in più che è previsto soprattutto per quanto riguarda la cassa in deroga, che guarda caso invece dovrebbe essere destinata a coprire proprio quelle realtà piccole e piccolissime in cui non è presente l'associazionismo sindacale. Però ecco, la mia sensazione è che noi dobbiamo uscire da questa fase complicatissima facendo tesoro della situazione, soprattutto con un insegnamento, cioè quello di dover veramente in momenti difficili, come diceva lei, invece adottare soluzioni semplici, efficaci e soprattutto immediate. Allora, faccio notare che alcuni ascoltatori mi scrivono che non hanno ancora ricevuto i 600 euro, altri invece che li hanno ricevuti sul conto corrente, e alcuni mi dicono: guardate che comunque sul sito dell'INPS c'è una pagina davvero intuitiva e semplice, chiunque abbia un po' di voglia e tempo può benissimo fare domanda da solo, cioè non serve in questo caso la consulenza. Altra cosa invece per quello che riguarda la cassa integrazione, vedo adesso un flash d'agenzia nel decreto di aprile, quello che dovrebbe portare a 800 euro il bonus per autonomi e partite IVA, vi sarà anche nel decreto di aprile le nuove assunzioni per gli infermieri, si tratterebbe di alcune migliaia di assunzioni per far fronte anche al carico dell'assistenza domiciliare legata all'epidemia di Covid-19. E certo, perché abbiamo capito ormai tutti che la prima cosa da fare, modello Veneto, è mappare, tenere le persone a casa, non ospedalizzare il virus, non nosocomizzare il virus e poi agire di conseguenza, non portarli tutti in ospedale come si è fatto qua in Lombardia, o peggio ancora mandare poi i positivi quando erano dimessi dentro le strutture per anziani. Vabbè. Senta, ma lei in questo momento, visto che poi interloquisce quotidianamente con il governo, sta notando un'apertura da questo punto di vista sul fronte proprio, penso che il suo interlocutore sia anche il ministro Cataldo in primo luogo, sullo snellimento burocratico? Stiamo confrontandoci col ministro su questo aspetto, credo che sia uno dei temi su cui assolutamente stanno soffermando la loro attenzione. Io mi auguro di vedere veramente, anche per la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione, una reale semplificazione, oltre a una riproposizione anche degli interventi a favore degli autonomi. E attenzione che c'è una grande differenza tra gli autonomi che devono presentare la domanda all'INPS per ottenere l'indennità da 600 euro e i professionisti che invece lo devono presentare alle casse. Lì abbiamo delle difficoltà perché sono state modificate le norme in corsa e quindi diverse casse non hanno ancora potuto provvedere al pagamento delle indennità ai colleghi professionisti. Ecco, ci aspettiamo veramente un intervento in aprile che ci possa consentire anche di sostenere gli iscritti agli ordini, perché è importantissimo. Allora, grazie anche alla Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, la Protezione Civile. Rispetto a ieri, 25.786 sono i ricoverati con sintomi. Qui abbiamo una diminuzione rispetto a ieri di 1107 pazienti, è il dato più basso registrato dal 27 marzo. La maggior parte dei pazienti sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, sono 78.364, pari al 73% del totale. Oggi registriamo 575 nuovi deceduti, mentre il numero dei guariti sale a 42.727. Ci sono 2.563 guariti in più rispetto a ieri, è il numero più alto in assoluto dall'inizio dell'emergenza. Altro dato importante è il numero dei tamponi, quasi 66.000 tamponi effettuati, 65.705. Per quanto riguarda le forze in campo, registriamo 19.913 volontari che si aggiungono al personale delle strutture operative e al personale sanitario e delle Allora, riprendo io la linea. Dunque, i dati sono anche qui buoni, tranne uno, forse l'avete già intuito. Il numero di ricoverati totali è calato di 1107 unità, ha detto poc'anzi Borrelli, che è il calo più forte dal 18 marzo. In effetti già ieri c'era stato un calo di 890, il giorno prima di 470 e martedì di 86 persone. Il calo più forte, appunto, non si vedeva un calo del genere nel numero di ricoverati da appunto da metà marzo, e sto andando a prendere appunto il dato, e bene anche il, sapete come vengono conteggiati, cioè c'è i nuovi positivi, ci sono due dati, uno è quello complessivo che ha la somma dei deceduti, dei dimessi e dei nuovi positivi, e poi c'è il dato solo sui nuovi positivi. Il dato sui nuovi positivi, sull'incremento, è di soli 355, è l'incremento più basso dal 2 marzo, quando avevamo 258 casi. E questa è un'ottima notizia, perché vuol dire che al netto dei decessi e di chi è uscito dal ricovero, da chi è stato dimesso, i nuovi positivi sono molto bassi finalmente, 355, ieri erano stati 1189, giorno prima 1127, giorno prima 675, 1300 lunedì, e si è viaggiato tutta la settimana scorsa tra i 1500 e i 2000 nuovi positivi. Quindi buono il dato sul calo dei ricoverati, buono il dato anche sui malati nuovi al netto, diciamo, di decessi e di dimessi, ancora alto invece il numero delle vittime, perché sono 575, ieri erano state 525, mercoledì 578, martedì 600 e via così. Quindi non ci muoviamo, lo dico per non fare per non fare facile ottimismo, non ci muoviamo dalla cifra dei 700. Adesso vi do anche i dati percentuali che sono importanti, perché i ricoveri in terapia intensiva sono meno 4,2%, i ricoveri generali hanno fatto meno 6%, e ieri la terapia intensiva hanno fatto meno 4, giorno prima meno 3, giorno prima meno 2, meno 2, meno 1, meno 3, quindi il dato è buono sulla terapia intensiva, che continua a aumentare come riduzione dei posti in terapia intensiva, meno 4,2%, i ricoveri meno 6%, anche questo è un buon dato, anche in percentuale, ieri erano meno 3, giorno prima meno 1,5%, tutta la settimana scorsa i ricoveri calavano di poco, tra il meno 0,7, il meno 0,5, il meno 1,1 rispetto al giorno prima, adesso invece il calo è ancora più consistente rispetto a ieri, meno 6%. I positivi, anche qui la percentuale è buona, più 0,3% nei positivi, il dato sulla mortalità invece, come dicevo, è in linea con tutta la settimana, non ci schiodiamo da un aumento giornaliero di intorno al 2,4, 2,7, 2,9, 2,8 e anche oggi è il 2,6%. Quindi a chi mi dice, ecco che vedi che i dati non sono così buoni, purtroppo no, sono buoni, perché sappiamo che la parte purtroppo sui decessi riguarda anche quello che è successo nelle settimane scorse, cioè quando ti hanno ricoverato, se con reparti saturi si è atteso tanto per ricoverati, chiaro che arrivi in ospedale con una situazione molto più compromessa e delle volte che non si riesce a recuperare, ed è invece importante vedere che calando i ricoveri così tanto e la terapia intensiva così tanto, immaginiamo che vi sia anche la possibilità di accettare prima, avendo posti più liberi, il ricovero. I dati sui morti sono alti, ma tutti gli altri dati, ripeto, sono positivi, lo dice lo stesso Borrelli, il livello più basso dal 2 marzo per quello che riguarda i ricoveri e anche i neocontagiati. Adesso però cambio, si fa per dire, tema e vado, in effetti i nuovi positivi 355 è veramente il più basso dal 2 marzo. Il 2 marzo eravamo ancora in piena, diciamo, fase Codogno e post-Codogno, e che vuol dire che il contenimento sta funzionando e finalmente lo si vede anche nei dati. Complessivamente ci sono 3.493 persone più di ieri tra decessi, dimessi e nuovi positivi, che porta il totale dei contagiati a 172.000 persone. Invece gli attuali malati sono 106.000, quelli che sono, diciamo, positivi. Allora, e non né deceduti né a questo punto dimessi. Dicevo, cambiamo tra virgolette tema, perché oltre ai dati diffusi dai consulenti del lavoro c'è oggi il dato della Banca d'Italia che, come dicevo, a me ha fatto impressione, perché la Banca d'Italia ha stimato per ogni settimana di blocco uno 0,5% del PIL in meno. Siccome il PIL vale 18 miliardi, vuol dire che ogni settimana di blocco il paese di miliardi ne perde 9. Guardi, sì, mi chiedete della regione. Beh, è ovvio che alla luce di quello che sta uscendo dalla task force di Colao, che il paese aprirà, la proposta è questa, in fasi diverse, prima il sud e il centro e poi il nord, è vero, è chiaro che il grosso arriva, è tutto lombardo, guardate. Sì, è Piemonte e Lombardia. Perché i 355 in più di ieri, in realtà sono la Lombardia ne ha avuti 344, l'Emilia Romagna 78 in meno sui malati, il Veneto ne ha 182 in meno, la Toscana 30 in meno, e invece abbiamo soprattutto Piemonte e Lombardia che fanno 344 in più la Lombardia e 215 in Piemonte, ma lo dicevamo, insomma, saranno le regioni che secondo le quanto anticipato dall'agenzia come proposta della task force apriranno per ultime, ma nel lockdown non parlo delle imprese, parlo della possibilità di spostarsi da un comune all'altro o di muoversi da una regione all'altra. Vabbè, poi vedremo le vacanze, qualcuno mi scrive le vacanze, si prepari a fare in Lombardia, sei in Lombardia. C'è poco mare, lo so. Francesco Daveri, direttore dell'MBA della SDA Bocconi, buonasera. Buonasera. Lei ha visto le stime della Banca d'Italia oggi, per carità abbiamo visto che c'è già stato il Fondo Monetario Internazionale, però fa impressione vedere una stima di mezzo punto percentuale di PIL per ogni settimana di blocco, anche se molte imprese, 60% delle imprese manifatturiere sono già aperte. È tutto dovuto al crollo dei consumi e servizi? Ma insomma, anche dovuto al fatto che poi le aziende sono legate l'una con l'altra e quindi certamente si parte dai consumi finali, però poi c'è tutta una trasmissione che parte dal se la gente non va più a Venezia, dato che poi sono chiusi hotel e ristoranti e poi ci sono i trasporti che non funzionano e poi chi vende i prodotti ai negozi e negli hotel e nei ristoranti chiusi di Venezia, insomma ci sono tutti effetti e ognuna di queste cose indubbiamente ha un'origine e però poi ha anche un canale di trasmissione che lo rende pesante per l'economia. Più a lungo dura questo, naturalmente più pesante è la cosa, però bisogna anche pensare che sarebbe meglio evitarci un colpo di coda dopo. Ecco, questo vanno ponderate queste due cose, ovviamente sono scelte molto difficili. Il che vuol dire però davvero che anche quando si riapriranno le attività di impresa, se poi il tema dei consumi non ripartirà, perché lei diceva insomma difficile andare in un posto, non vi sarà una ripartenza, diciamo, del PIL simile al crollo, no? Beh, magari non subito, però effettivamente c'è anche, insomma, se cominciano a lasciarci andare ad aprire negozi e si ci va e si fa il code, o bisogna usare la tecnologia per andare a comperarsi un vestito, se uno vuole andare a comperarsi un vestito, beh, ci si organizza. La cosa importante sarà magari essere un po' innovativi anche dal punto di vista del sindacato, direi, nel consentire aperture magari con orari di lavoro che non sono quelli ereditati dal passato, ma che invece possano ridurre le code, consentire alla gente di fare gli acquisti in momenti che sono più variegati durante la giornata. Certo, questo rischia di penalizzare i piccoli esercizi che spesso hanno difficoltà nel tenere aperto più a lungo, ma i piccoli esercizi si possono magari un po' organizzare in questa difficile fase per cercare di soddisfare le necessità che a questo punto sono di tutti. Allora, no, confermo a chi me lo scrive che quando si parla di nuovi contagiati si intendono morti e guariti, e la cifra di 3.493, mentre i nuovi positivi, si fa sempre casino con questa statistica, sono 355 in più di ieri al netto di morti e guariti. Però una cosa importante prima di chiudere è proprio quello che un'altra anticipazione sui suggerimenti della task force. Abbiamo capito, detto in apertura, che vi sarà semaforo giallo, verde, giallo e rosso a seconda delle aree, verde per il sud, giallo per il centro, rosso per il nord, e anche delle attività produttive. C'è una lista di settori ritenuti a basso rischio integrato, a medio rischio e ad alto rischio, quindi due diversi semafori per settore e per area geografica. Però adesso leggo assieme a voi: il 4 maggio potrebbero riaprire, seppur con una serie di limitazioni e divieti, anche bar, ristoranti e parchi. È sul tavolo degli esperti che devono dare indicazioni al governo, poi ovviamente deciderà il governo sulla base anche dei dati epidemiologici. Grazie anche a Francesco Daveri. Buon fine settimana a tutti voi in ascolto, da passare rigorosamente, lo so che dura, a casa, e noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.